9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, venerdì 22 di ottobre. Oggi, come vi ho anticipato nel lanciare il tema di questa trasmissione, abbiamo un solo ospite, che però vi prego di seguire con attenzione perché abbiamo molte cose da ascoltare da lui. E abbiamo un ospite, la ragione del fatto che sia qui da solo è perché è un ospite molto particolare a mio giudizio. Io ci tengo molto e sono molto grato che abbia trovato un'ora di tempo da dedicare non a me ma a voi, perché Roger Abravanel, che è qui con me in studio e che saluto e ringrazio, buongiorno Roger. Buongiorno. Da un paio d'anni ha avuto, oltre ai meriti professionali che ha accumulato prima nella sua lunga vita, lui ha fatto consulting, è un ingegnere, è un esperto di organizzazione, è uno che ha lavorato per molti anni in quei grandi gruppi internazionali che ad alcuni non piacciono perché pensano che siano portatori di una specie di matrice gestionale organizzativa comune nel mondo e che lo omologa. Non è così invece, perché è gente capace di capire come si può migliorare il processo organizzativo in qualunque settore, pubblico, privato eccetera, ma non perché hanno in mente uno schema generale di omologazione del mondo, perché hanno l'occhio per capire in che cosa la specifica realtà, lo specifico modello organizzativo non funziona, perché ne hanno visti tanti e sono in grado di compararli. Dopo aver fatto questo, Roger ha deciso che voleva mettere a disposizione del paese un po', almeno un po', cioè tanto, di quello che aveva visto, per proporre a noi tutti alcuni temi di riflessione su come cambiare questo paese, su come cambiare appunto il suo schema organizzativo in ogni suo aspetto di maggiore inefficienza. E allora ha iniziato a mettere mano a dei libri. Qualche anno fa è uscito un libro sul merito che ha attraversato come una febbre, con un dibattito a tutti i livelli, ne abbiamo parlato molte volte qua, ricordate, moltissimi convegni, con delle proposte concrete per rimettere al centro della vita italiana il merito, e alcune di queste sono anche andate avanti, sono stati assunti da interlocutori politici, ne parleremo. Oggi fa la stessa cosa con un tema altrettanto importante, collegato al prima ma altrettanto importante. C'è un libro che sta uscendo per Garzanti, lo trovate distribuito nelle librerie, un libro che, come sempre quello di Roger, insomma, è di una certa corposità. Io vi inviterei a non farvi scoraggiare dalle 365 pagine. Il titolo di questo libro è il tema che Roger questa volta mette al centro del confronto, e sono le regole. Perché tutti gli italiani devono sviluppare quelle giuste e rispettarle per lanciare il paese, dove il punto è proprio che tutti gli italiani devono cooperare alla creazione di nuove regole, invece che continuare a pensare che ce le deve dare dall'alto il politico, e che siccome il politico è sbagliato allora non ce le darà e quindi saremo costretti a essere un paese senza regole, and so on and whatsoever. No! Ciascuno di noi deve rimettere al centro le regole, perché le regole, quanto più il contesto in cui si vive, economico, giuridico, è complesso, come è complesso sempre di più quello di un paese aperto alla globalizzazione, tanto più sono necessarie. Non è vero che vanno semplicemente abbattute e disboscate, perché, e adesso comincio a dare la parola a lui, anzi, nel mondo complesso in cui andiamo, il processo attraverso il quale si riesce a creare il meglio del mondo nuovo e a evitare anche però tanti difetti del mondo nuovo è esattamente un processo in cui ci si ricentra sulla produzione di nuove regole rispetto a quelle vecchie. Il problema è quello di trovare le regole migliori, quello di farle convivere anche semplificando quelle precedenti, ma non azzerandole, e tutto questo è un processo che non è solo dall'alto, ma che fa vivere meglio un paese, lo fa crescere di più, quanto più è un processo al quale tutti i corpi intermedi sono inevitabilmente chiamati a cooperare. Questa è la banale mia introduzione, perché detta così è di poco interesse. Quindi con Roger vediamo di arrivare subito al dunque, perché io partirei dalle 5 proposte, anche se so che logicamente le 5 proposte vengono alla fine del ragionamento, però per consentire a chi sta a casa di iniziare le telefonate, Roger, io direi partiamo dalla fine e poi ricominciamo dall'inizio per capire perché le regole sono la cosa fondamentale. Ascoltate i primi minuti e decidete se intervenire, ma guardate che su queste 5 nuove blocchi di regole veramente si cambia la società italiana e si cresce molto di più. Sapete che io non ve lo dico abitualmente, sono uno molto critico e molto scettico, quindi fatemi il favore questa volta di ascoltare questi primi minuti le 5 proposte e poi decidete se chiamare l'800240024. Roger, grazie, e a te. Grazie Oscar, vorrei anche aggiungere che io do in beneficenza i ricavi dei miei libri. Giusto, giusto. Allora, cominciamo con le proposte. No, che è importante perché dovete sapere che ha venduto più di 40.000 copie il suo libro Consumetto, che con le medie italiane, insomma, non è poco. Sì. Allora, la prima proposta è di nazionalizzare, in alternativa a localizzare, le concessioni e le regole, se vogliamo, degli servizi pubblici locali, come i rifiuti, come l'acqua, come i trasporti. Spiego perché. Allora, prima di tutto, cosa c'entrano i servizi? Oggi c'è un grande... gli economisti, quando parlano dello sviluppo di un'economia, dicono fondamentalmente che bisogna produrre qualche cosa che viene esportato. Oggi questo che si chiama attività industriale rappresenta il 20% dell'economia. Quello che sviluppa l'economia e crea posti di lavoro sono i servizi locali. I servizi locali e non locali sono il turismo, il commercio, le telecomunicazioni. Se questi non crescono, non si sviluppano. Da noi potremmo creare da 3 a 4 milioni di posti di lavoro se facessimo crescere questi servizi. Il problema di questi servizi che noi abbiamo è che molto spesso le regole proteggono quello che io chiamo le imprese piccole bruttissime. Per esempio, nel caso dei rifiuti, chi proteggono? Proteggono le imprese che scaricano rifiuti tossici nelle discariche, purtroppo imprese di origine anche qualche volta mafiosa. E basta vedere i giornali tutti i giorni cosa succede. È pieno. Allora, perché succede questo? Per una ragione molto semplice, che se uno guarda le nostre banche, le telecomunicazioni, l'energia, sono regolate da enti centrali forti, competenti, che hanno un grande dibattito col governo, con gli imprenditori, e molto professionali, le autorità delle telecomunicazioni, l'autorità dell'energia, la Banca d'Italia. Questi enti che regolano i rifiuti e l'acqua sono centinaia di comuni, che purtroppo, essendo piccoli anche loro e non abbastanza competenti, sono la mercé di tanti enti, di tante imprese piccole che evadono le tasse, che non rispettano le regole. Allora, se noi centralizziamo le concessioni e in un certo senso nazionalizziamo, che non vuol dire ritornare alla partecipazione pubblica, ricreeremo la possibilità di creare interlocutori grandi. Per esempio, i rifiuti e l'acqua in Francia vengono gestiti da una grandissima impresa, da grandi imprese, una che si chiama Veolia, che vale 30 miliardi di euro di fatturato e che assume giovani laureati. Da noi invece abbiamo un sacco di piccole imprese che non assumono giovani laureati, e invece se si fa questo processo creeremo delle grandi imprese, verranno privatizzate e a questo punto si creeranno un sacco di opportunità e posti di lavoro. Quindi la prima grande proposta: nell'ambito dei servizi pubblici oggi locali, ricentralizzare l'ambito regolatorio, esatto, con autorità centrale indipendente che dà norme che sono di efficacia, efficienza, molto più efficaci di quelle delle centinaia dei comuni italiani. Questo si fa anche attraverso un primo passo, che il titolo proprietario torna allo Stato, ma poi l'obiettivo è che in questo ambito, come si è fatto per l'energia elettrica anni fa, così si mettono, sì, con una buona architettura regolatoria centralizzata, avete capito? Si mettono le basi poi privatizzare facendo grandi gruppi che fanno efficiente. Ma il problema è quello di reimpadronirsi della regolazione, che oggi in tutti i servizi pubblici, l'acqua è l'esempio che fai sempre, viene completamente abbandonata. Quello che viene centralizzato, Oscar, è la concessione. Esatto. Anche nei servizi che sono privati ci sono le concessioni, no? Allora, oggi le concessioni sono dei comuni, sono locali, vengono centralizzate, vengono regolamentate, perché a questo punto, per esempio, l'acqua bisognerà regolamentare le tariffe, e a questo punto de facto poi si creano delle imprese che poi saranno private, esattamente come l'Enel. Guardate, l'Enel è così. Attenti a casa, perché state immaginando subito che qui ci sia la fregatura. Io ricordo a tutti che l'acqua è di tutte le utilities italiane quelle col prezzo, o meglio, assolutamente incomparabilmente più basso, e grazie a questo, anche se oggi c'è una campagna che tende a dire no, bisogna tenerla pubblica, resta pubblica per legge, ma è il più inefficiente di tutti i sistemi europei per perdite, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo che potrà sembrarvi una ricetta travestita di privatizzazione non lo è affatto, perché significa rimettere attraverso la concessione la regolazione in un ambito che non sia dispersivo come quello attuale. Prima proposta questa, da applicare in tutti i servizi pubblici. Seconda. La seconda proposta riguarda il turismo. Allora, il nostro turismo, Oscar, è una fonte incredibile di reddito e potrebbe dare molti più posti di lavoro. Purtroppo è allo sbando. Siamo crollati al numero 27 della classifica di competitività, ricordo che la Francia è al numero 4, è fondamentalmente per una ragione, perché, permettimi di essere un po' brutale, ma il turismo da Paletta e Secchiello d'agosto è praticamente finito, perché il tedesco che prima prendeva l'automobile e veniva in macchina sulla Riviera Romagnola, oggi prende Ryanair. Un costo no, più basso ci va basso. Abbiamo parlato tante volte, qui c'è frammentazione dell'offerta e quindi bassa intensità di capitali, bassi servizi offerti, altri grandi paesi come la Spagna ci hanno fatto a pezzi. Esatto, esattamente. Allora, peraltro l'Italia ha un potenziale fenomenale. Allora, come se ne esce? Se ne esce di nuovo creando dei grandi progetti che coinvolgono grandi capitali internazionali e nazionali, operatori, per creare grandi operazioni di sviluppo. Noi ne abbiamo avuto un esempio in Italia fenomenale, è stata la Costa Smeralda. C'è un signore illuminato che si chiamava Laga Khan, che è andato lì, ha preso tutti questi piccoli operatori, gli ha detto mettiamoci insieme, facciamo un consorzio, avremo la scala a questo punto per fare un aeroporto, guarda caso, miglioreremo le infrastrutture, l'acqua, la distribuzione, rispetteremo l'ambiente. Perché ovviamente un Roger, piccolo... qua bisogna che ti chiedo di diffonderti prima che i nostri ascoltatori inizino a dire questo è un progetto da cementificatori su grande scala. Beh, tanto se uno va a vedere la cementificazione dove non ci sono i grandi progetti è 100 volte peggio, è una cosa spaventosa, l'abuso per assurdo, questo è stato considerato come un grande rispetto dell'ambiente, perché se uno va a vedere la Costa Smeralda non mi sembra che sia una cementificazione di grande scala, invece purtroppo la vediamo altrove dove ci sono gli abusi, i piccoli, eccetera. Quindi l'obiettivo è proprio di evitare gli abusi e i piccoli, che siccome si fanno i loro rapporti locali con le autorità locali, a questo punto non c'è nessuna regolamentazione. Allora, noi abbiamo la possibilità di farne diversi di progetti di questo genere e abbiamo già dei semi di questo genere. Per esempio in Sicilia. Allora, pochi sanno che esiste un campione delle regole in Sicilia che si chiama Ivan Lobello. Ivan Lobello è presidente della Confindustria. Ivan ha fatto una cosa molto coraggiosa. Ha preso e ha espulso dalla Confindustria gli imprenditori che pagavano il pizzo alla mafia. Ivan Lobello è, lo sanno i nostri ascoltatori perché ne parliamo spesso, il promotore insieme a Montante e così via di questo protocollo della legalità che poi dalla Sicilia, adottato in Confindustria siciliana, si è esteso con la presenza di Marcegaglia a livello nazionale ed è diventato un modello per tutta Confindustria. E Ivan è stato tra quelli che hanno girato pagina, insomma, anni fa in Sicilia. E Ivan dice una cosa assolutamente interessante, che è esattamente il cuore del mio libro, perché il mio saggio dice fondamentalmente che le regole bisogna seguirle perché conviene, non perché ce lo impongono. Ivan dice questo: la mafia deve essere combattuta non perché è il male, ma perché blocca le regole di mercato, blocca la libertà di mercato, no? Ivan racconta una storia bellissima. La macelleria di Palermo è una cosa straordinaria. A Palermo i prezzi erano più alti della carne. Perché? Perché le macellerie erano di proprietà della mafia o pagavano il pizzo, e a questo punto si è creato un cartello, faceva i prezzi più alti. Che cosa ha fatto Ivan? Cosa molto semplice, ha rotto sto cartello e a questo punto, in parte facendo l'iniziativa, in parte in altro modo, fondamentalmente i prezzi della carne sono scesi. Quindi combattere la mafia in questo modo, esattamente ciò che ha fatto all'Ortigia, perché all'Ortigia, che è un patrimonio a mio parere dell'umanità, un barocco meraviglioso, non so se ci e lui ha fatto de facto, ha fatto rinascere la città con un grande progetto, sottraendola all'abuso edilizio, creando un grande sviluppo turistico, ovviamente in una dimensione più piccola. Il potenziale che c'è in Sicilia è immenso per farlo, per esempio, nel sud della Sicilia. A questo punto bisogna investire, allargare l'aeroporto, creare infrastrutture, per esempio, di ospedali, perché se il turismo da Paletta e Secchiello è finito, è anche perché fondamentalmente noi abbiamo chiamiamo così, svedesi che hanno più di 70 anni e che vogliono passare 3 mesi a Costa del Sol, vogliono avere un buon ospedale, non vanno lì se sanno che, certo, si ammalano. Allora bisogna creare quindi un eccellente ospedale. Quindi in sintesi questa seconda proposta per il turismo è di creare, come rientra con le replicare, ecco, con un grande progetto tipo la Costa Smeralda su una scala, su un target completamente diverso nel sud della Sicilia, creando dei grandi progetti, ovviamente facendo una grande concessione che deve essere data per moltissimi anni. La regola è concessioni lunghe. Concessioni, capito? Lunghe, fondamentalmente, e a questo punto convincendo e allineando chi è proprietario della terra, che ce ne sono tanti, purtroppo da noi esistono ancora i feudatari in quelle zone. Quindi non è la microimpresa turistica quella che viene difesa, perché dice solo così difendiamo il livello occupazionale, attraverso di quella noi non siamo in grado di offrire servizi per intensità di investimento capaci di farci reggere la concorrenza, come abbiamo visto nello specchio mediterraneo. Quindi concessioni lunghe, adozione di una mentalità di convergenza in consorzi di lungo periodo, miglioramento della capacità di investire, attrarre investimento e dell'offerta infrastrutturale. La proposta numero 3 a questo punto. Oscar, voglio, hai detto una cosa molto importante sul tema della piccola impresa. Io ho un capitolo del mio saggio che non sarà molto popolare in Italia. No, in Italia non sarà molto popolare. Perché dice piccolo e brutto, anzi bruttissimo. Il problema non è tanto che le imprese piccole sono brutte, perché io conosco delle fantastiche piccole imprese che poi vogliono crescere, no? Il problema è che in Italia abbiamo il sommerso più alto d'Europa insieme alla Grecia, 24%, e queste imprese sono proprio quelle di servizio, molto di servizio. E a questo punto cosa succede con queste imprese del sommerso? Queste imprese del sommerso hanno doppio problema. Il primo problema che hanno è che sono inefficienti, perché operando nel sommerso, a questo punto è nel nero, non riescono a trovare il credito delle banche che gli permette di finanziarsi e fare investire, non riescono ad assumere giovani di talento, non assumono laureati, non riescono a investire in tecnologia, quindi sono inefficienti, molto inefficienti, sopravvivono solo grazie al nero. Ma la seconda cosa più grave, che appunto diciamo bruttissima, è che fanno concorrenza a quelle piccole, medie e grandi che invece vogliono crescere e innovare, no? Per cui e l'innovazione richiede assolutamente il rispetto delle regole, e noi abbiamo questo sommerso spaventoso che è, de facto ci costa, io ho fatto un calcolo nel mio saggio, ma ci costerà purtroppo 300 miliardi di PIL su 1500 di minor crescita, quindi milioni di posti di lavoro. Allora, questo spiega il perché le prime proposte sono orientate a rompere questo sistema, a in un certo senso togliere la competitività di queste piccole imprese bruttissime che non rispettano le regole nei rifiuti, delle piccole imprese a gestione familiare che purtroppo non rispettano le regole. Io non ho nulla contro le imprese a gestione familiare, sono fantastiche le imprese, però è importante che poi crescano e diventino imprese innovative, no? E questo, per capirci, tante volte abbiamo parlato a questi microfoni del paradosso della bassa crescita italiana con lo schema che io dico sempre 70-30, cioè che noi abbiamo il 70% della crescita potenziale breve che viene da meno del 30% del PIL, cioè il manifatturiero che esporta, e viceversa. Il 70% è dato dalla somma, appunto, nel PIL italiano di pubblica amministrazione e servizi, ed è lì che si annida il più delle inefficienze, della necessità di fare questi salti di scala. È tutto su questo il libro di Roger. Non pensate quindi che sia la mania di dire manifattura bene, servizi, piccola impresa male. No, qui c'è un'analisi, la leggerete, del perché e del per come ci sia un'induzione da regole sbagliate nel nostro paese che ottiene questo effetto, che impedisce di crescere, che scoraggia di crescere e che quindi poi porta al nero, che noi abbiamo record dopo la Grecia. Allora, da questo punto di vista andiamo alla terza proposta. Allora, la terza proposta mi richiede un po' di preparazione, del perché bisogna, come nascono le regole giuste, cioè com'è che nascono le regole nei servizi giusti. All'estero le regole nascono perché fondamentalmente non sono i politici a farle, non sono le regole, ovviamente sono le leggi, le norme. Sono il risultato di un circolo virtuoso in base al quale ci sono delle regole, vengono aggiornate, vengono rispettate anche se sono sbagliate dalle imprese e dai cittadini che lavorano per accettarle o migliorarle, e poi a questo punto si ritorna perché si crea sviluppo, si crea domanda di regole. Da noi questo circolo è diventato vizioso. Ed è virtuoso quando anche di fronte a regole sbagliate le si rispetta e magari ci si impegna pubblicamente, gandianamente, pubblicamente nella trasparenza per dire bisogna cambiarle, ma io accetto l'idea, sia pure con amarezza, di dovermi esporre alle conseguenze negative perché nel mio rispetto pubblico, ma su una regola che secondo me è sbagliata, gandianamente dico sono qua. Questa è la maniera civile e anglosassone di combattere. Beh, non solo contro anglosassone, le anche in Scandinavia, in Singapore. Cioè, allora, da noi questo circolo virtuoso diventa vizioso. Perché? Noi abbiamo le regole, non vengono rispettate. A questo punto cosa succede? Si fanno delle altre regole per farle rispettare, oppure si fanno i condoni. A questo punto l'evasione e l'elusione diventa totale. Siccome non si possono mettere in galera 4 milioni di imprese e milioni di persone che fanno, a questo punto cosa succede? La società è totalmente indifferente alle regole, totalmente, e a questo punto non nasceranno mai le regole aggiornate. È un profondo problema, Oscar, proprio un cancro della nostra società che ci costa un rallentamento spaventoso. Allora, la domanda è, ma come nascono all'estero questi circoli virtuosi? Nascono perché ci sono i politici bravi? No, ovviamente ci vogliono i politici bravi, ma c'è tutta la società. E fondamentalmente nel mio libro io racconto quattro pilastri. Il primo pilastro è la prima proposta fondamentalmente, è quello dell'educazione civica. L'educazione civica vuol dire fondamentalmente che tutti i cittadini e tutti i lavoratori collaborano nel rispettare le regole e nel contribuire a migliorarle. Purtroppo, e faccio tantissimi esempi nel mio libro, proprio nell'economia, nei vari settori dell'economia. Allora, dov'è che noi cadiamo? Qui c'è una cosa molto importante che io ho spiegato al ministro Gelmini, che mi ha ascoltato direi con interesse, adesso purtroppo il cambiamento è enorme, che è questo. Cosa vuol dire l'istruzione in una società di servizi? L'istruzione in una società industriale voleva dire sapere qualcosa, saper fare qualcosa, quindi nasceva la preparazione tecnica e poi naturalmente le lauree superiori. In una società di servizi l'istruzione vuol dire saper usare la propria testa, avere le proprie idee, risolvere problemi, saper interagire con le persone, saper ascoltare, saper leggere documenti e riassumere. Sono quelle che grandi esperti di education del mondo hanno definito 10 o 12 anni fa, con un nuovo protocollo dell'educazione, competenze della vita. Life skills. Sulla base di questo è stato lanciato un progetto pilota per misurare le life skills della popolazione. E noi rientravamo in questo progetto. I risultati ci sono, non sono stati, non so bene, forse posso immaginare bene perché, troppo pubblicizzati. Sulla base di questi risultati noi siamo al livello del Nuevo León in Messico e l'80% degli italiani sono, virgolette, definiti analfabeti. Definiamo meglio perché... Analfabeto non vuol dire che non sanno leggere, perché quelli soli analfabeti ce ne sono ancora 1 milione, vuol dire che non capiscono quello che leggono. Vuol dire che non sono in grado di ragionare bene con la propria testa. Stiamo parlando di 40 milioni su 60, okay. Per avere i numeri chi state a casa, cioè di 40 milioni di persone che un testo sì, ti dicono sì eccetera, però hanno un livello di apprendimento e di elaborazione su un qualunque testo scritto che li rende incapaci poi di dire oralmente, di sintetizzarlo in maniera che sia chiaro che hanno capito di che cosa stiamo parlando. Non sono capaci a leggere bene un estratto conto, non sono capaci a leggere un'istruzione per un computer. Sono dei raggirati naturalmente dalla banca. Questo numero in Norvegia, che è il campione, è 20%. Allora ti devo fermare perché ci abbiamo la pubblicità. Noi siamo sempre arrivati alla terza proposta su questa cosa fondamentale di come nasce la regola dal basso. Pubblicità. Eccoci tornati in studio, siamo qui con Roger Abravanel. Regole è il titolo del suo libro per garzanti, con i proventi destinati, non temete, però a beneficenza, e abbiamo percorso alcune tappe del ragionamento di questo libro. Regole dal basso, c'è un problema di anomia diffusa nel nostro paese, da dove nasce? Da incentivi distorti e sbagliati, necessità di adottare un criterio per quale tutti cooperiamo alla creazione di questo capitale sociale che dovete immaginare come una forza moltiplicatrice del reddito nazionale. Grandi economisti come Douglas North, il teorico della Path Dependence, la scuola istituzionale di crescita economica, lavorano da 30-40 anni proprio per dimostrare come il capitale sociale, di cui l'adesione alle regole e il processo di creazione di regole efficienti sono uno dei percorsi fondamentali per moltiplicare il tasso di crescita di un paese. Noi abbiamo un problema su questo, dice Roger. E allora identifichiamo 5 proposte sulle quali con regole nuove cambiamo il tasso di partecipazione dal basso alla creazione di buone regole, non tante regole inefficienti, buone regole, ma comunque regole, non semplicemente liberarcele delle regole, perché nell'economia dei servizi il passaggio all'alto valore aggiunto proprio dei servizi impone nuovi processi regolamentari e con questi si libera valore. Abbiamo visto la prima proposta innanzitutto, che era quella sui servizi pubblici attraverso la concessione, invece che continuare a immaginare su centinaia di ATO e comuni che non hanno la possibilità tecnica di regolamentare l'acqua e così via eccetera, rinazionalizzare la concessione a livello centrale, autorità centrali tecniche indipendenti di settore con cui ci diamo nuovo set di regole che fanno efficienza, poi nascita di campioni privati come Veolia in Francia e come è capitato con l'energia elettrica anni fa, quando abbiamo regolamentato, ceduto capacità di generazione, eccetera, eccetera. Seconda proposta, l'abbiamo vista sul turismo, uno dei giganti addormentati che contribuiscono alla creazione al PIL italiano meno di quanto capiti per l'Austria, pensatevi. Questa è la realtà del contributo del turismo alla bilancia commerciale del nostro paese. Anche lì, concessione su grandi progetti territoriali, convergenza di chi ha le proprietà lì in progetti di lungo periodo, concessione lunga per fare, per così dire, 10-100, per capirci, Costa Smeralda nel nostro paese. Terza proposta, eravamo arrivati sul meccanismo di fondo che riguarda, diciamo così, l'analfabetismo degli italiani. Roger, dobbiamo serrare il tempo perché poi voglio le telefonate, quindi... Sì, velocissimo, il problema è che l'analfabetismo, abbiamo detto, semplicemente è... Non è tanto il non saper leggere, ma come detto, questi test dimostrano la incapacità proprio di capire bene ciò che si legge, quindi di affrontare le competenze della vita. Il problema non è che gli italiani hanno un DNA particolare, anzi, gli italiani mediamente sono meglio di altre culture per certi aspetti, ma il problema è molto la scuola, perché parte questo analfabetismo misurato fra la popolazione di 16 e 60 è il risultato di bassa scolarità, di pochi laureati, ma è il risultato anche del fatto che col tempo non migliora perché i giovani non migliorano. Questo numero negli Stati Uniti vale 50%, ma sta migliorando perché i test dei giovani americani stanno migliorando, non sono così buoni le scuole americane, mentre quindi, i nostri test anche per quello riguarda i giovani stanno peggiorando. Il nostro, e sono bassi, al nord molto meglio che al sud siamo a livello dell'Uruguay e della Thailandia. Il problema quindi sono le scuole. Non voglio dire che tutte le scuole, ci sono delle ottime scuole in Italia, ma nella media e soprattutto al centro-sud non vanno abbastanza bene. Cosa succede nella didattica? La didattica deve cambiare, la didattica deve interessare i giovani, farli ragionare. Ti faccio un esempio banalissimo, ti ricordi il riassunto? Cioè, il riassunto è una cosa utilissima, perché cosa voleva dire? Tu raccontavi o facevi leggere e uno doveva fare un riassunto. Tanto scrivere, come tu sai, come si diceva in latino la vecchia regola è rem tene verba sequentur, ma esatto, vabbè, questo esatto. Per i vecchi oggi studi. Non si fa più. Allora, questi tipi di, chiaramente, la didattica delle competenze della vita è una rivoluzione. Infatti le migliori scuole del mondo dove sono? In Finlandia, dove sono state studiate queste nuove approcce. Se tu vai a vedere una scuola finlandese o norvegese non trovi più i banchi, non ci sono più. Ci sono dei tavoli, i ragazzi sono seduti attorno al tavolo con il loro computer, interagiscono, discutono e l'insegnante passa da un tavolo all'altro e facilita la rivoluzione. Mm-hmm. Qui c'è una rivoluzione epocale, ovviamente. Io in meritocrazia ho fatto una proposta molto importante che il ministro Gelmini ha accettato, che è quello di fare dei test nazionali standard. Test non sono quiz, sono test sulle capacità di ragionare, appunto, per poter misurare i giovani e adeguare l'insegnamento a loro e naturalmente valutare le scuole. Ti ricordo che oggi i voti della maturità in Italia non vogliono dire più nulla. Al sud ci sono il doppio dei 100 lode che al nord, quindi se tu vuoi dare le borse di studio ai più bravi non lo puoi più fare. Quindi il ministro ha accettato questa proposta, ma adesso bisogna andare un passo oltre. Bisogna rivoluzionare la didattica, e per rivoluzionare la didattica bisogna rendere le scuole responsabili. E per rendere le scuole responsabili devi a breve fare una serie di cose che spiego nel libro, e ho già discusso col ministro, martedì queste mie proposte andiamo a fare la Montecitorio, ci sarà anche la Gelmini, vedremo cosa dirà. Ma fondamentalmente rendere più trasparenti i risultati. Questi test devono essere resi trasparenti, per cui oggi se una mamma vuol sapere se la scuola di suo figlio va bene o meno, non può saperlo, deve andare a chiedere. Con questi si va a vedere e si scopre, guarda caso, che il 30% dei ragazzi di quella scuola in matematica ha avuto degli ottimi risultati, ma non falsi, veri, perché sono test standard nazionali. Allora, per essere ancora più precisi, questo è il meccanismo dei test applicati a tutti i livelli, orizzontalmente e verticalmente, in tutto il sistema dell'istruzione. Significano test che analizzino nel tempo gli insegnanti, la qualità dell'insegnamento e i risultati dell'insegnamento. Test che consentono alle famiglie di capire qual è il risultato nell'unità temporale di quella unità di formazione nel tempo successivo. In Italia l'idea che l'accesso ai dati pubblici di questa roba violi la privacy è una delle più colossali sciocchezze che esistano, perché non si tratta di consentire l'accesso ai nomi e ai cognomi e chi ha risposto nel test e che cosa ha fatto, ma di avere per ciascuna di scuole, università, formazione, eccetera, eccetera, il livello delle risposte che è uscito di là il livello delle performance che è uscito di là. Questa è la rivoluzione della pubblicità, del test, del dato test, fatto per misurare in maniera concreta l'efficienza e l'efficacia comparata di qualunque unità del sistema formativo. E quindi la mia proposta, oltre a rendere questo test trasparente, è una nuova architettura del sistema scolastico. E non voglio entrare troppo nei dettagli perché è veramente rivoluzionario. No, anche perché qua, siccome alcuni dicono sono proposte tutte centralizzate, al contrario, questo segmento è una proposta in cui le regioni diventano protagoniste di un piano dell'offerta formativa regionale, il ministero poi interloquisce, ma solo le regioni. Quindi un programma. Il ministero è fondamentale, certo, perché deve guidare e controllare. E ha bisogno di ispettori oggi veri. In Inghilterra esistono 1500 ispettori che ispezionano le scuole, che si chiamano Her Majesty Inspector, gli ispettori di Sua Maestà. In Italia 10. Non si possono chiamare neanche ispettori, si chiamano dirigenti tecnici, perché l'idea è che altrimenti a mamma mia ficcano il naso. E comunque questo è un modello, nel capitolo si approfondisce, in cui le regioni diventano anche libere di offrire, laddove esiste un mercato, cioè Lombardia nel sud, certo, è più complicato, diventano liberi per esempio di praticare il voucher, di costruire alle famiglie, quindi decidere dove allocare secondo criteri comparati il meglio, okay, delle risorse. Andiamo veloce sulle altre due. Allora, ti ho detto quindi i pilastri delle regole. Primo l'educazione, secondo la giustizia civile. Noi continuiamo a leggere su tutti i giornali i problemi della giustizia penale, il processo. Non sono queste le cose che influenzano la nostra società civile. E la giustizia civile lo sanno perché molte volte. Giustizia. Allora, cos'è il nostro problema? È che la giustizia civile ha i tempi del Gabon. Del Gabon. Non è una battuta, perché a casa noi è davvero i tempi del Gabon. Ai tempi del Gabon, siamo una giustizia civile con i tempi del Gabon. Allora, se un giovane vuol fare una nuova impresa e fa cioccolato, vuol vendere cioccolato, il suo cliente gli dice: io non ti pago, fammi causa. Lui fa causa e sa che ci vorrà 10 anni e quindi non si impegna. Come può nascere una società di servizi moderna? Come può un giovane volersi impegnare? In meritocrazia ho scoperto un campione che si chiama Mario Barbuto, che era il presidente del Tribunale di Torino, aveva ridotto i tempi della giustizia civile. Adesso presidente della Corte d'Appello. Grazie a lui e grazie un po' anche a meritocrazia del fatto della pubblicità, insieme abbiamo studiato un modo per poter trasferire l'esperienza di Torino a tutta l'Italia attraverso un approccio che chiamiamo Delivery Unit, un'unità di consegnare agli italiani una giustizia civile veloce, che sono interventi non giuridici ma organizzativi. Allora, i capi degli uffici giudiziari diventano dei manager responsabili di processi di abbattimento nel tempo dell'arretrato e di velocità maggiore nello smaltimento delle pratiche da parte dei componenti dell'ufficio. C'è bisogno di capi degli uffici giudiziari che siano manager di processi gestionali. Si può fare, non è vero che dipende da risorse che oggi non ci sono, bisogna che i magistrati cambiano la testa, questo è il problema fondamentale. Poi il terzo pilastro di una società civile sono i media. Qui lanciamo il tema dei media, che è l'ultima, perché abbiamo bisogno di un minuto di informazione sulla circolazione stradale, quindi poi segue con l'ultima proposta, quella che riguarderà la RAI. Sentite bene, questo è peggio di voler riformare le ferrovie dello Stato, se Napoleone può pensare di riformare la RAI. Però Roger dice: su tutti i media cominciamo dalla RAI, cioè la parte pubblica. Informazione sulla circolazione stradale. Allora, siamo arrivati alla quinta proposta di quelle che Roger Abramanel propone per rimettere le regole, buone regole, a cui cooperano tutti per la loro produzione, al centro della vita italiana. Riguarda l'informazione, perché per come è organizzata la struttura dell'impresa editoriale, l'abbiamo detto tante volte, noi siamo un paese contrassegnato da delle performance negativissime, la più bassa oramai penetrazione di carta stampata sul totale della popolazione, in discesa tra i giovani. Io vi posso dire che tra i miei 120 all'università a comprare loro in primi giornali generalisti sono in 4-5 oramai, non di più, poi ce n'è un 30% che li trovo a casa, il resto disintermedia. E così via. Allora, come si fa? Dipende da come sono organizzate le proprietà editoriali? Sì, però cominciamo, dice Roger, dalla parte pubblica del sistema informativo, cioè la RAI. Il problema è privatizzare o meno? No, dice Roger, il problema è quello di avere un filtro preciso tra chi esercita il diritto proprietario e chi poi fa le nomine, perché la questione è la qualità, non il pluralismo, come in Italia si dice. La RAI, allora, il pluralismo significa ce ne sono tot di tuoi, tot di miei, chiunque cambia il colore politico, la questione è la stessa. BBC invece c'è un trust, adesso sto sintetizzando per rubarti tempo, c'è un trust, cioè c'è un filtro tra la proprietà pubblica ed chi fa il giornalista, chi fa il direttore di rete, chi sviluppa i programmi, chi ne risponde, e in base a cosa ne risponde, al criterio di lungo periodo che chi sta nel trust dice qualità, non pluralismo. E quello è un sistema che funziona, dove la gente addirittura dice che vorrebbe pagare di più del canone che paga se in cambio ha più qualità. Quindi la proposta alla fine alla RAI che bisogna fare, Roger? alla RAI bisogna eliminare la commissione di vigilanza e sostituirla con un trust come quello della BBC, che è pubblica, ti ricordo che è pubblica, e dove gli inglesi sono contenti, il 75% degli inglesi sono contenti di pagare il canone, e c'è un trust costituito da 12 persone che non sono politici. E come si fa a evitare che poi siano i politici che comunque li nominano a mettere gli amici? Fondamentalmente degli amici? Facendo come nominando loro. E poi scusa, il secondo coso sono il CDA, non è costituito anche lui da persone nominate dai politici, ma costituito da persone di televisione. E questo, la cosa importante, è nominarli non tutti assieme, ma nominarli uno per volta. Quando Bush voleva sostituire il presidente della Corte Suprema, voleva metterci un suo amico. Non era molto bravo, però era un suo amico. Piccolo dettaglio, siccome gli altri non scadevano, questo signore mediocre sarebbe stato azzannato dagli altri. Quindi invece ha dovuto nominare una persona di grandissimo livello, non tanto amico suo. Noi facciamo la stessa cosa. Con meccanismi di nomina a rotazione, cioè periodi sfalsati nella durata del mandato personale, si ottiene l'effetto di impedire che la nomina in blocco dica la maggioranza e la minoranza e diventano quelli politici. Ma diventano quelli, sì, saranno anche più vicini, ma insomma sono migliori. Oscar, c'è una cosa fondamentale che dobbiamo dire. Dobbiamo spezzare il circolo vizioso dei media italiani. Il problema di fondo è che gli italiani pensano che noi non siamo un paese libero. Non siamo altro, il numero, la mia esperienza è che hanno spezzato chi la pensa come noi. Sì, lo so, posso lo so dire. Questo è vero. Purtroppo quindi, non ce ne sono tanti tra come chi te. Spezza e chi è spezzato. No, no, ma non come me. Dico che anche le tue idee a chiacchiere, molte deep service, come si dice in inglese. Poi di fatto voglio però vedere. Però dobbiamo spiegare ai cittadini una cosa molto importante, che questo non è solo la RAI, è tutti, una gran parte di tutti i media. Ai nostri cittadini cosa pensano? Noi non siamo un paese libero, siamo il numero 74 nella libertà economica, che è l'essenza della libertà. E io dico sempre sociale. Che nella mia esperienza l'informazione economica e finanziaria è ancora più captive, prigioniera dei grandi interessi quanto capiti con la politica. Assolutamente. Ma questo perché? Non perché i nostri media, in particolare la RAI, favoriscono in un caso Berlusconi, nell'altro caso D'Alema e queste cose qui per le elezioni. Perché fondamentalmente noi vediamo tutto in chiave della libertà di poter votare. Esatto. Perché noi siamo in campagna elettorale permanente. Nei mondi sviluppati i media hanno un altro ruolo, che è quello di informare. Appunto. E più informano e più educano e più diventano economicamente indipendenti. Perché cosa succede? Alla CNN un signore paga per avere informazione. Qualità, cosa esatto. succede? Che i nostri media, non avendo lettori sofisticati, perché l'80% sono analfabeti, decadono le loro capacità di trovare risorse e diventano proprio prigionieri. E quindi le risorse chi gliele danno? I politici e gli imprenditori. E diventano succedanei di scuole di partito. Allora, guarda, noi abbiamo, io a questo punto mi scuso con tutti gli ascoltatori, perché ne scelgo una a casa, quindi mi scuso con Michele da Genova, Andrea da Milano, Antonio da Roma, perché qui c'è tempo solo per una telefonata a cui dare una risposta, e quindi scelgo io il tema tra quelli che mi sintetizzano, perché mi sembra uno dei più importanti. Marco da Reggio Emilia. Marco, che domanda volevi fare a Roger Abraham? Allora, innanzitutto due slogan: 10.000, 100.000 dimensioni come questa, perché aiutano a far capire alla gente che dobbiamo darci una svegliata, dobbiamo darcela dal basso. E altro slogan velocissimo: Roger è for president. Io condivido al 100%, e visto che per il mestiere che faccio, per il tipo di vita che svolgo, la partecipazione anche dal basso, visto che ho un figlio che frequenta la scuola materna, partecipo all'interconsiglio comunale delle scuole per l'infanzia, dunque cerco di fare di cooperare, di far tessuto con le altre famiglie, eccetera. Dobbiamo assolutamente recuperare come popolo la capacità di credere in noi stessi e di capire che noi possiamo cooperare, e quindi mi dispiace perché riprendo un po' per inseguimento le nostre parole, però dobbiamo recuperare la consapevolezza che ognuno di noi può dare un apporto significativo a questo paese. Ecco Marco, io infatti ho scelto te e adesso purtroppo ti devo la parola, proprio per far capire a chi a casa, adesso partono le presentazioni, andate alle presentazioni di questo libro, il processo di formazione di nuove regole passa per la costruzione della consapevolezza che è dal basso, ciascuno di noi guadagna con la creazione di buone regole, e solo così si obbliga chi è rent seeker, cioè chi esercita una rendita di posizione, a cambiare obbligatoriamente con nuove regole il fatto che avrà meno rendita, ma deve accettare l'idea che si fa più competizione, più valore aggiunto. Questo non a caso, le 5 proposte, come avete visto, stanno tutte nel settore dei servizi, perché è lì che bisogna fare il salto dimensionale, è lì che avviene l'ingresso vero nella competizione, che ancora oggi non c'è stato. E quindi non stupitevi che vi sembrano cose un po'. po' slegate tra i servizi pubblici e l'acqua, tra il turismo e sempre le concessioni, la scuola, la giustizia, l'informazione, perché invece, come trovate se leggete il libro Garzanti Regole, è questa filosofia complessiva delle nuove regole, quella su cui trovate capitolo per capitolo poi pacchi di dati comparati, quindi non è il mantra di un nuovo partito, questa è una riflessione di vita fatta su interi settori dell'economia italiana e internazionale, condensata in queste 5 proposte. Se diventassero lo slogan di un partito, io ci lavoro gratis, e questa è la mia conclusione, ringraziando Roger per il tempo che ci ha dato e ringraziando oltretutto in regia, come al solito, Carmelo Lauricella, Alessandro Mercoturno in redazione, Franco Piantenetta, grazie alla cui pazienza andiamo in onda, linea al Giornale Radio, e per quello che ci riguarda, appuntamento a lunedì. Yeah.